Io su questo avrei delle osservazioni, cioè io non credo che si possa dire che Bush finisce ingloriosamente o quantomeno possiamo dirlo ora, ma io credo che molto presto un'analisi storica più serena rivaluterà molte delle azioni che ha compiuto George Bush. Io credo che l'Italia abbia fatto bene ad essere un alleato leale dell'America di George Bush, come farà bene ad essere un alleato leale di chiunque vinca questa importante campagna. Però